Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera al professor Ugo Mattei. Buonasera, buonasera. Il professor Ugo Mattei, professore di diritto civile all'Università di Torino e di diritto internazionale comparato all'Università della California, avvocato cassazionista, ha scritto per Einaudi il libro Contro Riforme, ecco, contro staccato riforme, quindi non un libro sulla controriforma della Chiesa Cattolica dopo Martin Lutero, ma un libro dedicato alle riforme di cui si parla tanto, soprattutto in questo periodo, le riforme che non si fanno, il governo che dovrebbe fare le riforme, l'Italia e l'economia italiana che attende le riforme. Ecco, queste riforme, c'è qualcosa che rema contro, ma perché, professor Mattei, il suo libro dice che le riforme sono necessarie, ma non quelle di cui si parla. Certamente è stato perfino fatto adesso un ministero alle riforme e quindi il tema, diciamo, del mio libro è sicuramente, va a toccare in qualche misura un punto vivo. Il fatto è che riforme è un termine assolutamente vuoto, privo di qualunque contenuto, può essere e può veicolare tutto il contrario di tutto. La tesi del libro è che nell'ultimo periodo, nell'ultimo ventennio, in concomitanza con la cosiddetta trasformazione neoliberale dell'economia, qualunque cosa questo significhi, per dare un orizzonte, diciamo, temporale di senso, il riformismo si è trasformato da un grande progetto di inclusione e di trasformazione sociale nella direzione dell'uguaglianza, che era tipico dell'idea novecentesca del riformismo, che stava all'interno, come dire, tanto della tradizione cristiano-sociale quanto del socialismo gradualista. Ecco, questa visione di società inclusiva che si sarebbe dovuta raggiungere è stata viceversa sostituita da un'idea di riformismo di segno completamente opposto. Riformismo oggi significa sostanzialmente concentrazione del potere nelle mani dell'esecutivo, quindi riformismo si abbina la nozione di governabilità, un progetto molto sostenuto di privatizzazione e di liberalizzazione dell'economia, flessibilizzazione del mercato del lavoro e sostanzialmente smantellamento delle strutture del welfare. In altre parole, dietro lo stesso significante, riformismo, è passato un significato totalmente opposto. Per cui quando i politici, gli intellettuali, i giornalisti dicono bisogna fare le riforme, il mio libro dice facciamo molta attenzione, domandiamo che cosa davvero significhi bisogna fare le riforme e domandiamoci se sia il caso di farle quando i contenuti vanno in una direzione che io argomento è contraria rispetto al disegno, in particolare al disegno costituzionale dell'articolo 3. Ecco, lei sottolinea come negli ultimi 20 anni, in pratica, quando c'è stata una certa alternanza al governo, con una certa prevalenza del centrodestra, però anche il centrosinistra è stato al governo per alcuni anni, le stesse riforme avanzate, proposte da una parte, sono state proseguite dall'altra. Quindi in un certo senso l'attuale governo, il governo di Enrico Letta, che mette insieme le due anime, quella di destra e quella di sinistra, potrebbe proseguire su questa strada, per cui non c'è stato in pratica un contrasto. Lei fa cenno appunto alla riforma dell'università, iniziata da una parte e proseguita dall'altra. Quindi questo governo proseguirà la tendenza degli ultimi anni? Ma guarda, io ho parlato di bipolarismo seriale, cioè il fatto sostanzialmente che nel sistema della cosiddetta Seconda Repubblica italiana ad un alto tasso di polemicità e di conflitto dal punto di vista declamatorio, dal punto di vista operazionale si è in realtà verificata una sostanziale continuità, che è stata quella che io faccio discendere dall'essere buoni allievi delle ricette provenienti dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Troica e dalla Commissione UE. Quindi in pratica l'Italia si diventa uno dei buoni allievi semiperiferici, come ce ne sono tanti in Africa e in America Latina, cioè che portano avanti sostanzialmente un tentativo di andare in una direzione indicata da fuori. Oggi secondo me con il governo Letta si è visto che questo bipolarismo, che diciamo di tipo seriale, è diventato invece sincronico. In altre parole, ha ragione lei quando dice ma in fondo facevano le stesse cose dal punto di vista strutturale, e in qualche misura il tasso di conflittualità, portava a litigare molto e quindi a realizzare meno di questi piani riformisti, che io non condivido per niente, perché, le ripeto, nel libro argomento a fondo che si tratta di piani riformisti che io vedo come incostituzionali, ma che comunque in qualche misura le forze si ridevano a vicenda, oggi sono tutte insieme ed è pensabile che si vada in quella direzione. D'altra parte non è una novità, perché il governo Monti è stato proprio questo. Io non credo ci sia tutto questo declamare, questo governo è politico, secondo me dimostra semplicemente che la politica nazionale oggi è condannata al mondo dell'irrilevanza. Questo governo proseguirà nella direzione del governo Monti, che a sua volta aveva fatto riforme che erano state impossibili da farsi a Berlusconi in virtù proprio dell'opposizione che aveva avuto. Basta pensare alle riforme del mercato del lavoro, no? La grande flessibilizzazione, il cambiamento dell'articolo 18 non sarebbe stato possibile da una parte, è stato possibile al governo tecnico. È stato un cambiamento abbastanza più formale che sostanziale, peraltro. Però ci sono due obiezioni, professor Mattei, sul fronte di un maggiore impegno pubblico. Da una parte che l'impegno pubblico costa e le risorse sono limitate più per la matematica che per la politica, e poi che in fondo il sistema pubblico italiano non brilla per efficienza, per capacità di gestione. Quindi lei auspica un maggiore impegno pubblico, ma come risolvere questi due fattori? Ma guardi, lei mette il dito in una piaga importante. Io faccio un discorso di questo tipo, dico sicuramente c'è stato un momento storico che è stata la primavera del 2011 in cui l'indicazione del popolo italiano era di andare in una direzione contraria rispetto al senso delle riforme che venivano proposte che sono state realizzate dal governo tecnico. In altre parole, si voleva un'inversione di rotta rispetto alle liberalizzazioni, alle privatizzazioni, a quello che è stato fatto negli ultimi 30 anni. Ci si sarebbe potuti e dovuti aspettare che questa indicazione del popolo sovrano fosse seguita. Io non nascondo affatto che è molto difficile ricostruire il settore pubblico. Il mio libro lo argomenta, ma anche nel mio libro precedente, quello sui beni comuni, questo discorso l'avevo fatto con grande responsabilità. Il settore pubblico è molto difficile da trasformare, va trasformato in senso inclusivo e partecipativo. È una grande scommessa, bisognerebbe mettersi intorno al tavolo le migliori intelligenze del paese e lavorare in quella direzione. Purtroppo invece le migliori intelligenze del paese sono andate nella direzione opposta, cioè si sono messe intorno a un tavolo a pensare come fare l'opposto di quello che il popolo sovrano aveva indicato come direzione da percorrere, e quindi continuiamo nella direzione di buttare il bambino con l'acqua sporca. Il tentativo di la questione dei quattrini e dei soldi per i finanziamenti, per esempio delle infrastrutture o per le necessità che ci sono, anche questo secondo me è l'esito un po' di una specie di cattura cognitiva. Oggi si pensa che l'unico modo di fare investimenti sia farsi imprestare i soldi dalle banche. In realtà non è così, indebitarsi non è il solo modo di fare investimenti. Gli investimenti si possono fare, si dovrebbero fare anche utilizzando quelle grandi risorse collettive che sono per esempio il risparmio, l'aggregato del risparmio postale che fa della Cassa Depositi e Prestiti un'istituzione molto molto ricca, che oggi è governata con una logica tipica di una banca privata, ma che invece dovrebbe rispondere, a mio modo di vedere, ad una logica pubblica, ossia essere lo strumento che ci consente di sperimentare questa innovazione del pubblico. A Napoli ci si sta provando, naturalmente in un contesto difficilissimo. Io stesso da un anno sono presidente dell'azienda locale dell'acqua, che sta cercando di costruire un sistema, un'azienda pubblica partecipata, che sia governata da un'idea di pubblico che non è la proprietà privata dei partiti del momento, ma un'idea di pubblico che sia un modello che effettivamente riesce ad attirare le migliori energie di quelle persone che vogliono interessarsi delle cose comuni, un pubblico che utilizzi dei sistemi di controllo basati su una matrice dei beni comuni, quindi non l'arbitraria soluzione per cui le perdite degli enti pubblici vengono appianate poi dopo dalla fiscalità generale, ma invece un sistema di monitoraggio di che il pubblico possa svolgere la sua funzione sociale, la sua funzione ecologica in modo certo, particolarmente efficiente. Sono cose molto difficili, me ne rendo conto, ma io credo che siamo in una tale situazione di crisi economica, culturale ed ecologica che valga la pena davvero di tentare delle strade innovative. Io quello che ho paura, e la ragione per cui ho scritto il libro contro il riformismo, è che questo allinearsi verso una visione di riforme che buttano il bambino con l'acqua sporca e che vanno nel senso contrario rispetto al quel grande disegno di una società più giusta e più libera che voleva la Costituzione del 48, si non sia la soluzione dei nostri problemi. I nostri problemi vanno cercati in uno sforzo differente. Grazie professor Mattei. Indubbiamente è importante riflettere su questi temi. Il suo libro è abbastanza provocatorio, ha certamente alcuni punti forti e alcuni, mi permetto, punti deboli. Indubbiamente il pubblico negli ultimi anni non ha dimostrato, lei stesso lo ammette, una grande capacità di gestione. Molto spesso la gestione diretta del pubblico delle attività economiche si è dimostrata un'invasione, quasi una proprietà privata dei politici di queste stesse attività economiche, con gli effetti che abbiamo avuto. Comunque riflettere su questi temi, confrontarsi, guardare appunto anche alle problematiche che mettono insieme le problematiche di politica economica con quelle di politica tout court, con quelle poi del diritto e soprattutto del diritto nato dalla Costituzione italiana, che resta una legge fondamentale, una legge che certamente profetica per certi aspetti è ancora molto valida. Abbiamo parlato del libro Contro Riforme con il professor Ugo Mattei, professore di diritto civile dell'Università di Torino. È un libro edito da Einaudi, sono 120 pagine per 10 euro. Grazie professor Mattei, grazie anche a Roberto Scartritti in regia, a Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento per Economia in Pagina per sabato prossimo. Vi ricordo che questo programma, come tutti i programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata a tutti.